attenzione, binario 23, brecco. Cucu, cucu, cucu. Chi è? Asino Coccodè. Buonasera, Asino Coccodè. E beh, ma... Ma sei Gianni? Sì. Eia, ma c'è il bip del quello della macchina, o l'hai tolto? Quello della macchina. Eia, ma tu praticamente sulla macchina nuova non bucherai mai, no? Ma no, gira gira non emetti, perché tanto non c'è più il tanto. No, non emetto mai. Manco... manco con la calabria. Io mi graffia sopra, mi graffia la capote. Che è successo? Se non l'avrei messo magari con la madre macchina, mi graffia la capota, non si muove, come fai a tutto. E ormai, non ne vale la pena. Non c'è stato traffico, magari, ci avrei anche pensato. L'avrei messa... magari dove c'è quella della radio e avrei messo quella bolla, quella della zecca, perché è un bollo, una bolla pubblicitaria. Eia, sì lo so, non c'è più traffico, era anch'io una volta mettevo il barchino in macchina, ma c'era gente sul 10 o sul 5 tutta la sera, capito? Le ruote erano unite una volta, capito? Vabbè. Non credo che rientreranno più quelli del 10, i pochi del 10, non credo rientreranno più. Oh, yeah. Sto per telefonare a Pomponio, avrei se aveva voglia di uscire e tirarsi una cosa al bar. E poi mi sono distratto, stavo lavando delle ciabatte, sandali da mare, che erano leggermente impolverati perché erano buttati nello stanzino, adesso sono lindi, però sono bagnati e devo aspettare che asciughino un po' al sole. No, io ho anche altri impegni, capito? Comunque Claudio l'ha detto che tra poco il 10 rinascerà di nuovo, così ha detto io. Ma sai, anche altri anni abbiamo detto, l'altra estate non entra quasi nessuno, sarà perché è estate, la gente al mare, poi arrivava l'autunno e niente, arrivava l'inverno e niente, la gente non ne ha più voglia, la gente c'è social network, contatta tutti gli amici, senza tarare antenne, senza dannarsi con antenne in macchina, beh d'altronde li capisco. Vabbè, ma la passione è passione, perché sono cose diverse. La passione è un'altra cosa, quando c'è la passione la porta avanti, ma a me mi hanno chiesto addirittura se volevo prendere la patente, mi hanno chiamato Walter eccetera eccetera l'altro giorno, ma io non ho più voglia, ho detto guarda, non voglio manco della 27, figurati prendere la patente radio amatoriale. Poi, come ho pensato io, ci vogliono antenne di dimensioni proibitive, non lo so, ci vogliono antenne per varie, vabbè, una V, una V e U, presto fatto, ma in HF è più problema, è più ostico, perché o uno si accontenta di una CP6, e allora è come avere l'antenna della macchina, vabbè, un po' meglio, dai. Come avere l'antenna della macchina, perché se compri antenne performanti ci vogliono, cioè, per il dipolo ci vuole un bel di spazio per i dipoli o per antenne verticali buone, ma tipo alte 8 metri, 9 metri, tipo la Cushcraft TR9, quella è un'antenna con la maiuscola, multibanda, tutte le bande, impari anche le varche qua. Solo che è pesantissima, alta, pesantissima, devi mettere tiranti, controtiranti, poi dice che a tararti tutte le bande è un lavoro massacrante, devi avere meglio l'analizzatore di antenna, perché sono antenne molto molto complesse, cioè non è un tubo dritto, lì c'hai i capelli capacitivi, bobine, se sbagli poco poco qualcosa non ti funziona nulla. No, no, un incubo è. Vabbè, ma quando ci si mette quello che di una volta come si fa, non è quello il problema. problema è che poi avendo una casa indipendente lo pari anche. Ma poi sono i condomini, già che mi hanno fatto la guerra perfetta di assetto, comunque di cui ci sono anche appunto Pesciata, ci sono Scaletta, ce ne sono diversi di polo che occupano un poco spazio. Anche, sì, qualche dipolo caricato c'è, per esempio c'è l'antenna, l'antenna cornuta, quella V, che fa 10, 20, vabbè ci sono varie, c'è una che fa 10, 15, 20, no 15 metri, cosa sto dicendo? Vabbè, tipo 10, 20 e 40 mila, cose principali. Gli 80 però già sono troppo lunghi per un'antenna del genere. È praticamente come se fosse un'antenna verticale però messa a 45 gradi di inclinazione con è speculare, capito? Anche la massa ha le stesse dimensioni, le stesse bobine, farza radiale, capito? Però caspita, cioè non è roba sempre piccola, un po' in larghezza. Vabbè certo, se uno ha una casa da solo può mettere quello che vuole. Oh, tu conta che una volta ero a Porto Torres, no? Dove c'era Sandro, c'avevo l'antenna a terrazza per i 45, non ho nemmeno parlato, no? Ricordato tutto, faccio un fischio, avanti chi chiama, chi avanti il fischio, come niente per dire, no? Quindi se uno già con l'antenna alla macchina lo sentono incontinente, anche con una CP6 per dire qualcosa fai, magari non fai oltre l'Europa, però qualcosa fai, capito? A me vabbè la CP6 è sempre piaciuta perché è un'antenna piccola, dimensioni contenute, certo lavori pur sempre con un quarto d'onda parzialmente caricato, ma se uno è in condominio quella può mettere, a me non parlo per me, parlo per me, i terrazzi sono di proprietà altrui, quindi non so nemmeno se esiste più la CP6 perché poi hanno fatto un modello più costoso, prima c'era la CP6R, poi hanno fatto la CP6 con un'altra sigla che costava molto molto di più, e beh cosa avevano aggiunto? Avevano aggiunto un pezzo di cavo arrotolato che fa da... Aspetta, cosa hanno aggiunto? No, no, aspetta, non me lo ricordo. Questo Marco per dire. Alla casa sua e ci mette quello che vuole, nessuno gli dice niente. Ci può mettere anche lui quindi super calatici. Anche nel caso col telefono, ma hanno fatto qualche scherzo. Dal telefono ogni tanto mi fanno qualcosa. Mi fa questa cosa per fare di fuori. Chissà come l'ha messo, secondo me lui che ha fatto questo campo, mi ha messo questo campo qua, mentre magari guardava il mio telefono, mi ha messo questa scusa. Oh, ah, focchio, che ti metta qualche troian per spiarti il telefono, mi. Ehi ragazzi, adesso ne sanno poi due strisce, mamma mia, di elettronica, se sono predisposti sono dei mostri. Appena è uscito un sistema operativo, cos'era Windows 10, ho visto dei bambini da Ocean già toccando aprendo le impostazioni, no, dei Windows 10 e dicendo mi guarda questo è per regolare questo, questo è per impostare questo, io a bocca aperta. Sapevano già come funzionava, manco uscito nei negozi. Boh. Sì, perché sono nati con la tecnologia, allora anche Marco è così, Marco per dire se vuoi spiare il telefono della madre, sai cosa fa? Ha messo questo app qua, che praticamente lui dal computer legge tutta la cosa che scrive la madre, nei messaggini, tutto qua. Cazzo, lo tiene d'occhio la madre, allucinante. Se lo c'ha la madre lo arroccia. Già la cacchiata. Non c'è anche un grande media adesso, però non va bene, dai, faccia queste cose. E ma io voglio sapere cosa da fare, come fai con il riesco. Eia. Beh, io per esempio viceversa uno lo può fare con un figlio, soprattutto se è minore, no? Tenere d'occhio dove va, col GPS puoi vedere dove va, cosa scrive, capito? Puoi attivare il microfono a distanza e tu senti nel tuo cellulare cosa dice, capito? Perché se i figli possono pigliare le cattive strade, quindi se il figlio è minore, ma credo che anche tanto il genitore deve tutelare il figlio, quindi penso che legalmente lo possa pure fare. Ma viceversa, vabbè, un po' così. Perché sai, i genitori hanno anche la loro intimità, no? Giustamente un genitore, ci siamo capiti, no? Deve avere la propria intimità, no? Infatti stavo dicendo, io invece, sai cosa faceva anche Marco? Si cambiava il programma del televisore, capito? Cioè ti cambiava il canale, ma è tramite cosa? Col cellulare, col computer, col tablet, cambiava, perché tu stai guardando un film e lui ci metteva e capito, ti faceva vedere un'altra cosa. E poi ci metteva a ridere, capito? Sì, quello lo puoi fare quando hai lo smartphone con gli infrarossi. Con gli infrarossi puoi usarlo come telecomando. Sì, sì, va. Cardino, almeno te l'aspetti e ti senti questa risa. Abbastanza inquietante, soprattutto di notte. Eh? Voglio fare un QTC a Pomponio. Pomponio, ci sei all'ascolto? Ormai, è qui tardi, che ora è? Oh, sono le 6. Cioè io tendo a uscire alle 5 se le proprio devo andare, poi quando si fa già un'ora più tardi comincio a rompere le scatole. Perché torno tardi, la gente si è già presa il parcheggio, per dire, sai, tutti alle 8 e mezza sono già a casa, e qua devi tribolare per il parcheggio. Va bene. E lo so, ma se aspetti che queste cose non fanno mai niente. Ma esci, ti fermi, ci sono tanto un po' di tipo, guarda, quello che fa, io non posso uscire da casa. Ma non puoi uscire per, ma sempre per il piede, non mi ricordo perché, già, ma c'ho la memoria un po' corta in questo periodo. Posso uscire perché sono in malattia, se andrebbe di confiscarlo mi trovo a casa qua. Sì. Ah, per quello, quello sì, ma lei è per il medico fiscale, che come dice il termine, fiscale, proprio. Va bene. Comunque, ritornando a quelle antenne, no, va bene l'antenna cornuta che ti fa 10, 15 metri, non mi ricordo se ci siano, ci pare di sì, però non so che, pare sia una banda VARC, boh, non me lo ricordo francamente. Però gli 80 metri dove li vuoi mettere? Guarda che è importante anche la banda 80 metri, perché mentre per esempio di mattina vanno i 20 metri, poi si attenuano, o meglio 20 metri, poi 40 metri fino a mezza serata, poi però sul far della sera cominciano a risvegliarsi gli 80 metri, capito? Quella banda si attiva soprattutto di sera e di notte. Io personalmente, se fossi in radioamatore, non rinuncerei agli 80 metri, a costo di mettere anche un'antenna un po' compatta, magari ci fai poco, ma almeno l'Italia ce la vuoi fare. Vabbè, 160 metri è una banda già fuori, non è possibile lì, capito? È già fuori scala quella banda, troppo lunga. Per esempio la CP6 copriva dai 6 metri agli 80 metri, certo lo faceva molto, molto blando, ma bene o male Italia è qualcosa di centro Europa, la puoi fare, dai. Poi tanto quello che fa il resto è la propagazione già. Sì, faceva dai 6 agli 80 metri, capito? Mi sarebbe piaciuta se avessi deciso di andare avanti, però non ho voglia di studiare. Matematica, elettronica, tutte quelle robe là, non a Giugana. Poi non è, francamente non ne vale la pena, te lo dico io. Tu adesso che cosa stai ascoltando col ricevitore? Perché io ce l'ho buttato il ricevitore e non, non so più cosa ascoltare, non si sente più nulla, boh. Guarda, aspetta che lo accendo, ecco, qua ci ho ricevuto da tavolo e ci sono memorizzate esclusivamente le frequenze amatoriali. E non c'è mai un'anima, oppure? Oppure aspetta, segnali ogni tanto, raramente entra Walter, entra Vittorio, ma è diventata una cosa rara. Tu puoi stare tutto il giorno acceso. Per esempio adesso c'è qualcuno sui, aspetta che guardo, 432525, credo che sia un ponte, credo. Già, quello è linkato, l'R0, 20145600. Se non sei le frequenze, cosa vuoi ascoltare? Gli amatori di Sassi, c'è tutta l'Italia che parla. Ciao Claudio, non lo so se ce l'ho 145600, aspetta che controllo. Allora, aspetta, parto dall'1, allora, 0, 525, 430, 100, no, poi il ponte Cisa, lasciamo perdere, quello lo disattivo proprio, 145, 275, 433, 500, 433, 075, già te lo ricordi, ah? 145, 6625, 432, 55, 145, 350, e boh, no, non ce l'ho 145, 600, ma molto è attivo. Quello che tu stai ascoltando al 432, 525, è linkato. Se tu metti a 145, 600, senti le stesse persone che stai ascoltando in UHF. Ma se non avete le frequenze, se non avete le antenne, cosa vuoi ascoltare? Ma Sassari vuoi ascoltare? Cosa vuoi ascoltare? Per ascoltare ci vuole antenne. Non è che puoi ascoltare con un antennino lì nel balcone o con Marco. Lascia perdere Sassari. Sassari oramai si è passato in un mondo digitale, quindi per poter ascoltare devi avere le antenne. E se vai adesso in 40 metri, 20 metri, 15 metri, 18 metri, in 80 metri, da tutte le parti c'è gente, da tutte le parti, ma anche nei ponti. Anche nei ponti, capito? Ci sono i ponti della Liguria, ci sono i ponti, però devi avere l'antenna, non è che... Vabbè, ma va a fare una doccia. Ciao Gianni, dove mandi a Gianni? Ciao Cla. Vai, tu non vuoi malattia, sì. Non sei uscito. Ho detto, sì, quando guarisce bene, non posso tornare. Beh, normale, se una cosa guarisce, non bisogna trascurarsi. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, devo da farmi una doccia, oggi ho mangiato pesante. Ho sdraiato lì, fuori, al fresco, mi gioco un dormito. Dai, ci sentiamo dopo, ragazzi, vi faccio un rinfresco, dai. E io perché ho già mangiato? Prima ho dormito, mi sono svegliato alle 5 e qualcosa, alle 5 e mezzo ho mangiato cavolfiori con le olive. Chiamano assuffugati. No, c'è per cavolfiori lui. No, c'è un po' di insalata, i calamari, di tutto. La pasta fredda con il pesto. Olive, pomodorini, basilico. Sto mangiando troppo di nuovo. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Comunque, Marco, la gente c'è. Non guardare Sassari, perché Sassari, ti ho detto, oramai è tutto in modo digitale, eccetera, eccetera. Però c'è l'R0, c'è l'R2 Alfa, c'è l'R7 Alfa, c'è il link con Olbia, dalle V alle U, che insomma non è postare qua ad altre frequenze. Ce n'è di roba da ascoltare, però per ascoltare ci vogliono le antenne, perché non puoi pretendere che con un antennino così messo lì dove ce l'hai tu puoi ascoltare Olbia o puoi ascoltare un leoncino. Va bene, dai, riprendi già, ci aggiorniamo dopo se ci siete, saluto tutti circolarmente, campionati. Oh, una volta che ero al centro ecologico ho sentito uno che parlava da lontano, pensa, al centro, non al centro ecologico, più su dove si ferma il tram, sentivo uno in VHF, in pare o UHF, che parlava da lontano, cioè era basso il segnale ma capibilissimo. Come scendevo di un metro, con la macchina, non lo sentivo più. Quindi doveva essere parecchio lontano. Centro ecologico si sente bene tutto, è come la mia zona. Tu immaginati, io ho i ponti qua che alcuni arrivano a fondo scala, alcuni no. Perciò l'antenna è abbastanza efficace, abbastanza, però la zona è alta, quindi tu sei in città e con l'antennina piccola non è che puoi pretendere molto. Va bene, dai, a frappè, c'è un bel venticello fresco qua, ci sta bene, dai, ci sentiamo dopo, riprendi già. Apri. Vabbè, io monitor di sasso adesso, 145 525. Cosa che muore, non c'è nessuno, ma non c'è nessuno, sono tutti sui ponti, sul sistema digitale oramai. Infatti è sempre spento, molto più sasso. Perché non sei dovresti prendere uno in modalità anche digitale, capito? Quindi adesso stanno parlando sulle rete, ma è da poco fa che stanno parlando, c'era questo anche in quello di Olbia, c'era questo in quello di della Liguria, 575. Ti ricordo Marco che ormai tutti i ponti c'è il tono, che non ti posso dire qua, ci sono delle modalità per l'accesso, che se non sei radioamatore non entri. Hanno fatto tutti così, perché così non distinguono i ponti, sono tutti codificati, quindi sono il codice d'accesso, non entri nessuno, addirittura che non mi hanno comunicato mai il codice d'accesso, ascolto solo ma non posso entrare. Perciò e non mi interessa entrarci perché non è un ponte che io ci vado, già non vado nei nostri fiori, se vado in quello degli altri. Va bene, dai, stacco, ci sentiamo dopo, ciao, passo e chiudo, riprendi Marco. Ehi, se non sono subito neurologici, sono digitali, al massimo qualche tono di PMF inviato come un codice, ma niente di che. Va bene. E poi, vabbè, quel ricevitore portatile che ho regalato a NASA, Marco usato ne ha regalato, messo in scatola e buttato in scatola. Cioè, vabbè, basta, zitti. A bocca c'è mia stata zitta, così. Sì, non lo so usare, cioè me ne sono pentito, gli ho dato così, ha buttato in scatola. Tanto vale che me lo vendessi allora. Me ne sono pentito un po', ma va bene, non fa niente, già c'ho questo, già c'ho l'altro portatile. Sì, purtroppo con l'avvento anche del digitale per i rianimatori. Oh, non credo che sia tutto questo traffico mi. Perché quando sento su Roger Cap i commenti che uno vuole testare in digitale, non c'è mai nessuno disponibile, lasciamo stare. Sì, qualcosina faranno, ma qualcosina. D'altronde non è che ci possono buttare tutto il resto degli apparati, no, solo per avere il digitale. Guarda, io ce l'ho, l'avrò usato se no 4-5 volte, altre 450 euro lampade in chili. Ma perché non c'è attività? Magari d'inverno, Marco, capito? D'inverno c'è un po' più di movimento, più ascolto. D'estate sono tutti in giro, tutti sparsi a cercare lumache, capito? Ma c'è chi se lo imbarca, c'è chi se lo porta nel camper, e ci sono anche quelli che parlano. Ma io ero rimasto in barca, in camper, e ero rimasto di giorno, ma nel camper, la barca. Ma l'unico che io sento la barca è Antonio, che c'è la barca di Avalghero. Gli altri non gli frega niente, quando uno va in barca gli amatori di alto livello pensano a fare altro, non a stare lì alla radio, così ne vai già, ma lascia aperte, lui sto dicendo che poco ne vale, infatti io già stazione Gugoldotto a Sassari, e mi tengo con le poche cose che ho voluto tenere, una verticale 10, 15 e 20, di polo di 40, di polo di 80, basta, non finito. Ma ce l'hai qui? Io non dico, ma ci sono tetto, 3500 euro di antenna. E soprattutto si può spazzare qualche radiale, le bobine, sono tutte antenne che costano un barcaccetto. Capito, rotore, il nuovo lavoro è fatto regolare, non ho paura che ne cada niente perché è stato fatto benissimo da Fabrizio da Marco, però le tolgo perché non le uso, sono sempre in 40, io 40 e 20 che c'ho di poco. Le antenne le faccio girare sì per il rotore, ma no. Non è che faccio una attività, tutto arrivo a tutte le parti anche con i filari, quindi anche con questa verticale arrivo un capo al mondo, perciò anche ieri io sono diretto con le Baleari proprio, soprattutto in VHF ci sentiamo sia d'estate che d'inverno sempre, perciò non ce n'è problema. Peccato perché molto lavoro, scala aerea, questo e quell'altro, in cui per non usarle, tu hai fatto un po' di cose, hai comprato un po' di vetri in capo, tutto quanto. Vetri in capo, c'è il commutatore, mi è costato 300 euro, c'è un commutatore elettronico con capo di alimentazione, commutazione elettronica, come c'ha Batman, come c'ha Fabrizio, come c'hanno tutti. Il rilevatore è molto importante avere il commutatore, capito così, un commutatore all'interno dove stacchi completamente anche l'elettrostatica per i temporali eccetera. Quindi guarda, vedi, adesso sono passati in digitale sul retro, vedi Marco? Chiamami in digitale, vedi? Ecco. E fra un po' non senti niente, vediamo, te lo faccio sentire cosa senti, guarda. Io, fammi vedere. Io devo cambiare l'aria per sentire. Vabbè, chi già, spese inutili, come abbiamo fatto un po' tutti, dai. Spese inutili, vieni. Ecco cosa senti già. Con questa radio che non è digitale, se accendo l'altra sento qualcosa non mi sento, capito? Senti solo fruscio e basta. Lo senti questo suono? Così erano i portatili nostri mi, che usavamo un pomponio, uguale. Non so perché non ce l'ho, non so. Ma dico, per uno che non ha digitale, vado ad ascoltare le cose che senti dai miei. Senti questo rumore, senti... Capito, non senti altro. Punto e basta. Ehi, vabbè, ma io già lo so che è digitale quello. Aspetta che lo silenzio. Ecco. No, cosa è successo? No! Se tu metti il 575 Marco, se c'è una buona zona, una buona antenna, vediamo se lo recito. Sì, allora io lo recito. Sì. Ok. Lì c'è il ponte della, un ponte della Liguria che arriva molto forte in un monte molto alto. C'è sempre gente, capito? Sì, mi ricordo che proprio dove c'era, dove ci si ferma il tram, che c'è una specie di campetto sportivo chiuso da una rete, no? Che c'è una casa cantonale, credo, sempre chiusa, lì mi fermavo la macchina e sentivo, anche in VEU sentivo ponti da fuori in VEU, ponti, capito? Cosa che da casa assolutamente non. Primo perché abbassa l'antenna, poi tre quarti d'onda UHF, ma non è maccio, certo, se la mettessi sul tetto sarebbe un abisso sarebbe molto meglio, non le voglio mettere, manco per le balle le metto. Io questo 575 l'ho, pensavo se arrivava bassino, qua arriva quasi in fondo scala, non arriva a 9.30, a 9.20 arrivo, benissimo. Va bene, dai, riprendete la giacca e si è liberata la doccia, se no mi secondo d'ora a muglio. Sempre in acqua, sì, o è calda quella? No, l'aria è fresca, ma non fredda, che va bene, però bisogna sapere come lascia qua. Fa un bilano di parecchina, ragazzi, va giù fiamme di parecchina, no? Oh, c'è l'impianto dell'acqua, ci vanno le pastigliette del cloro, col cloruro di sodio. Se pubblica si entra lì dove i funghi, entra quell'altro si fa la pisciata, entra quell'altro e c'ha le piattole, entra quell'altro e c'ha qualche altra malattia alla pelle. Piscine pubbliche io non ne ho mai fatto, mai usato, mai e poi mai. Quando ce l'hai privata è un'altra gruppa, capito? No, io ci sono andato a fare più poco, sono stato fortunato, non avevo detto niente, però ci sono andato anche col piede messo male, se non me ne ho preso, ma però è sempre, diciamo, è sempre a rischio, dai, perché ha detto che il cloro non fa nulla. Non fa nulla per certe cose. Una curiosità. Per tante, quindi può essere a tuo favore o a tuo sfavore, ma a prescindere da quello, in una piscina pubblica entra tanta gente con magari delle patologie che tu non sai neanche, quindi può essere anche un rischio, capito? Può andare bene come può andare male, capito? Però quella tua personale è un'altra cosa, perché va curata diversamente, sai quello che fai, come la gestisci, eccetera, chi entra, chi esce. Capito già, non lo so, no, beh, cloro non ammazza nessuno, cloro non ammazza nessuno, gli occhialini ci vogliono, ma questo di qua è sempre bello, io lo controllo spesso, è sempre sotto la norma, sempre sotto i 0,10, 0,8, rimane 0,7, proprio, a volte anche 0,5, pH è sempre intorno ai 6,95, 6,90, 7, siamo lì, dai, va abbastanza bene, va bene, dai, vi lascio una mezz'oretta, ci sentiamo dopo, riprendi Marco. Una curiosità, ma nelle piscine pubbliche, prima di entrare nella piscina, c'è l'obbligo di farsi una doccia? Io spero di sì, no, perché se no non credo che uno arrivi da fuori lurido e si tuffa in piscina, no. Non so dove, se in Giappone o dove l'ho letto, c'era l'obbligo di farsi una doccia, di farsela bene, dopo potevi accedere alle piscine. Ma non c'è nessun obbligo. Figurati. Ti ha risposto Gianni, Marco, quello che io ho visto all'Aqua Fantasy, dove lavoravo, era una cosa allucinante. Capito? Arrivavano tutti giù da, tutti ben ghirosi in macchina, dopo magari che hanno fatto 20-30 km in macchina, eccetera. Pagavano il biglietto, si toglievano le ciabatte, la maglietta, boom, in piscina. Non funziona così, è giusto quello che hai detto. Tu prima di entrare in una piscina pubblica, perché ci devo entrare anche io, ti dai una pulita, ti dai una sciacquata, ci sono le docce, ti dai una sciacquata e ti pulisci i piedi, entravano i piedi lumidi, ma niente, ben ghirosi. Che schifo. Pensa che qualche anno fa Ivan mi aveva detto, ci vieni all'Aqua Fantasy, mica è bello, mi diverti. Io poi vabbè, per altri motivi non sono voluto andare, ho detto, ma lì ci vanno i bambini, cosa ci vai a fare a quello che c'è vicino a noi, come si chiama? Verso Sorso, quello è l'Aqua Fantasy, non mi ricordo come si chiama. Aqua Park, boh. Water Paradise. Quello. No, io non ci sono voluto andare perché ho detto cosa ci faccio io? Poi c'è gente giovane lì, cosa ci vado a fare io, ultra quarantenne, a far ridere i polli. non è così Marco, ce n'è tutte le età, anzi ce n'è più grandi che piccoli, ma c'erano le volte che facevo il kamikaze oppure gli scivoli con le mani giunte a faccia a terra, che invece è paratura, e poi ci arrivavo al bordo. Oh, vabbè, comunque quando c'è troppa gente, già il mare, già Platamona pare una prodaglia, si gomito a gomito certe volte, e lì ci sputano, ci pisci, vabbè, già hai capito, se non di peggio, quindi quando ci penso un po' mi viene. Comunque io l'avevo sentita questa storia, non so se in Giappone o dove, prima di entrare in piscina ti devi fare la doccia, ma presumo anche col sapone, cioè ti lavare i capelli, le zone intime, i piedi, dopodiché quando eri bello pulito allora potevi entrare in piscina, se no così è uno schifo, uno può arrivare tutto binghinoso con la pitriasi, con le piattole. Ma non è come dici tu, non è così esagerato, ci sono ombrelloni, c'è fatta l'inglese, ci sono gli ombrelloni, le sdraio a bordo piscina, c'è musica, si balla, praticamente fanno, come si dice, spettacolo, eccetera eccetera, un po' di tutto, e ti diverti, sei tutto il giorno lì sempre sotto l'acqua, c'è il vibromassaggio, c'è una goduria. Ma tu stai dicendo piscina, tipo le piscine di Piazza di Segno o Water Paradise? Water Paradise. Io sono stato tante volte via Water Paradise, quando poi c'era il mare mosso ce ne andava a morire, così almeno non ci portiamo mai nulla. Lì ti diverti, però poi fai un po' di volte le scale per fare lo scivolo, quindi fai ginnastica, io facevo scendendo e poi risalendo di nuovo. Io li ho fatti tutti i giochi, non ho problemi. No, ma anche questo fatto di giochi, dei scivoli, non mi ci trovo proprio, dai, mi sembra una cosa che potevo fare a 20 anni, ma non più. E vabbè, e quindi niente Water Paradise. Comunque è anche importante, dalle piscine pubbliche, piscine dove si nuotano, vabbè, non anche Water Paradise, perché no? Io consiglio comunque, uscendo dalle piscine o quello che è, di farsi un'ulteriore doccia, anche con sapone antibatterico, in modo da togliere lo strato di eventuali batteri che ci possono essere, no? È il più igienico. E Marco, tu sei invecchiato prima del tempo, sei vecchio dentro. Ah, che ti diverti, io sono andato con i ragazzi, vedevo più ragazzi di loro, sempre facendo giuchi, sempre c'erano queste cose di acqua fresca, che dicevano panatoso, era una cosa, praticamente ci sono tante luce, no? Qua sotto, c'è la luce con l'acqua fresca, già un video tutto, c'è sempre una cosa particolare. Faccio passare per il piccato, certo non è così, sempre si alleva, poi c'è il mare mosso che fa in piscina, a un certo punto mi dico l'attenzione che praticamente stanno arrivando le onde, si fa le onde come il mare, la piscina. Beh, già è bello, sì, solo che non lo so, non mi piace molto questa vita mondana a me, capito? Dove c'è troppa gente, vabbè, passi il mare, lì sei costretto, in estate la gente la trovi sempre. Tu la gente pure la rotonda al mare, diciamo, che non c'è niente, a carità. Io quest'anno non sono andato neanche una volta. Ah, nemmeno io. Un po' per l'operazione, un po' dice devo stare, comunque me l'ha detto adesso, vado al mare un po', magari non nelle ore di punta, ma anche alle 5 di sera può andare, 4-5 di sera. So che io francamente non ne ho voglia, perché non ne ho voglia, mamma ne, tantomeno ne ha voglia, e quindi cioè, quest'estate ce la passeremo a casa, buttati, proprio buttati così a casa. Vabbè. Così devo aspettare altri 9 mesi, magari mi viene un altro accidente fra 9 mesi e siamo punti a capo. Ma l'operazione è andata bene, sì. Certo, benissimo, hanno rimosso quasi tutto il tumore. Più di tanto non hanno scavato sopra, perché sennò fanno sanguinare proprio il cervello, capito? Bisogna fare una risonanza magnetica tipo 8 opere e nel caso di piccole recidive si tiene sotto controllo con radioterapia, perché io credo che la radioterapia servisse solo per i tumori maligni, invece no, la radioterapia tiene sotto controllo anche quelli benigni, capito? Evita la riformazione, la recidiva. Non si sono fidati invece a toccare un cancro, perché devono fare danni, devono farti diventare più fatto di quello che sì. Ehi, anche quello è vero. Poi non vi ho mai mandato la foto, vi mando una foto di vedere questa cosa che praticamente si espandeva da su verso giù, capito? E poi trovando l'osso spingeva verso su. Meno male che sono passati dal naso e non hanno aperto il cranio, se no lì c'è, aprendo il cranio, la scatola cranica, già c'è più un alto rischio di infezione, poi la degenza è molto molto più lunga. Caspita, ti devono tenere anche in corsia con tutto il coso, il monitor, con i parametri, è un casino, è un casino quello. Per fortuna con l'endoscopia stanno facendo passare da gigante. Sto bene, ciò che finisce bene, Marco. Avanti, qua. Comunque non esco perché ormai sono le 6:30, mi sono girate le palle, perché alle 5 va bene, sono svegliato, alle 5:30 ho mangiato, poi mi girava l'idea di provare ad andare a Pomponi a pigliare qualcosa da bere al bar, poi è cominciato, sono senza ciabatte pulite, devo i sandali, li ho dovuti sciacquare perché i sandali erano fermi, erano tutti impolverati, poi li ho messi fuori a asciugare, insomma, tra una cosa e l'altra mi girano le palle, perché avrei preferito non dormire, mangiare prima e uscire alle 5, però essere già fuori. Poi mi si girano proprio le scatole, no? E mi passa la voglia, infatti mi è passata la voglia. Non sei uscito, tocca il microfono, lo spinotto. Ho detto che praticamente potevi passarci uno straccio umido nei sandali. Sì, la spugnetta umida, però poi c'erano peli di gatto, tutto un macello, perché erano in basso, allora le sciacquate a doccia piena proprio. Perché i sandali che avevo fino a ieri si è scollata la rifinitura del tallone, questa robaccia cinese. Io avevo quei bellissimi sandali della Cressi, da quando la solita mia zia ha messo a posto, non li ho più trovati, e quelli erano più belli, erano fatti bene quelli della Cressi, mi piacevano anche come forma. Vabbè, male che vada me li ricomprerò, però cavolo, ce li avevo nuovi, sono spariti, così come è sparito quel famoso rosmetro ancora, tutto sparito è qua. Io ho già, te lo dico proprio, io in camera sono molto disordinato, in camera mia di solito c'è una baraonda, però nella baraonda trovavo tutto, sapevo tutto dove trovarlo. Quando metto a posto non trovo più niente, devo andare alla ricerca di questo, devo andare alla ricerca di quello, devo aprire tutti i cassetti, tutti gli armadi, ma chi me lo fa fare? Come ho detto io, siccome sono vagamente anarchico, come ho detto, l'ordine è nel caos. Tu nel disordine ti trovi, dai, ho capito. Non ti vuole male, magari ti l'ha fatto tutto, e non la c'è più pagato. No, buttato no, Giacchiere, però io nel mio disordine, cioè l'oggetto lo metto sempre allo stesso punto, lì trovo quello, lì c'è quello. Come mi dà queste cassettiere, fissata con le cassette, con i mobiletti, non trovo più niente, per trovare un catalogo devo scavare, devo aprire tutto. E vabbè, già hai capito, te l'ho detto, l'ordine nel caos, un po' anarchico come pensiero. Ma Claudio è andato a fare la doccia? Via. Vabbè, non c'è nessuno stasera, Gio Maria, Giulio, ci siete? Torre Squalo, non c'è nessuno? Ecco, Gisetti. Alla fine, proprio sta baracchino ridotto ai minimi termini. Vedrai che secondo me tempo un anno e toglierò proprio il baracchino da qua, lo sai, libero tutto, tolgo il mobiletto, tolgo gli alimentatori, fine dei giochi, me li porto nella tomba, me li tengo come ricordo, basta. Quando sei solo non sai cosa fare, ti giri i pulici, invece se c'è il baracchino magari entri, parli, si fa la chiacchierata, non togliere mai nulla. Vabbè, però già c'è, guarda, mi sto molto acculturando su internet per quanto riguarda le reti LTE, 3G, insomma mi sto leggendo un po' di documentazione tecnica, insomma poi c'è YouTube, vedi video di tutti i tipi, soprattutto parlano di telefonia, di nuovi smartphone soprattutto. Ecco perché mi sono fatto un'idea su questi Xiaomi, che poi si pronuncia Xiaomi, c'è scritto Xiaomi, si pronuncia Xiaomi, solo che adesso te ne dico una, Gianni, che gli Huawei, soprattutto dalla medio gamma in su, dovrebbero avere schermi Samsung, capito? Hanno schermi di tutto rispetto gli Huawei. Invece Xiaomi certe volte fa questi schermi un po' così, con colori un po' falsati, oppure quel bruttissimo schermo un po' semicurvo, bruttissimo. Huawei trovi tutto anche dai cinesi, trovi custodie, vetrini, ricambi, di tutto e di più. Per esempio gli Xiaomi ti regalano già una mezza custodietta in silicone, no? Per non graffiarlo dietro. Però non mi si vale come marca, sai perché? Huawei è impegnato in tante attività, ha stanziato roba di 600 milioni di dollari, di euro, non so, per fare ricerca, non so in quale campo della telefonia, per istituire reti 5G in alcuni paesi disagiati tipo India, cosa. Cioè Huawei investe milioni e milioni in ricerca e sviluppo. Xiaomi ti vende questi cellulari, ma poi guarda, a malapena è l'assistenza italiana, perché solo in questo anno mi pare la Xiaomi ha approdato in Italia l'assistenza, ma non c'è il centro assistenza a Sassari, capito? Invece Huawei ce l'ha. Poi vabbè, quello che ho letto sul centro assistenza Huawei italiano non è molto edificante, però c'è il centro. Poi il fatto che non ne abbiano voglia è un'altra cosa. Ma vedi, Huawei è più conosciuto, io l'altra marca manco con la sapevo proprio tu stesso. Huawei è più conosciuto perché tutto ce l'hanno a casa, ce l'abbiamo in treno. I 10 e i clienti ce l'abbiamo io, Liliana e Marco, tutti e tre ce l'abbiamo. Loro ce l'hanno ordinato da internet e io invece me lo posso andare a Sassari perché non mi fidavo. Ho detto magari ci arriva mancato il vento, cose che mi piace, non si sa mai. E ve l'ho tirato la tasca, l'ho pagato 100 euro in più, però almeno ce l'ho avuto subito. Allora invece quando vedevo il mio, fammelo toccare, fammelo vedere, No, infatti il cellulare, lo smartphone, a parte è delicato, basta una piccola caduta, si può rompere il vetro, a parte quelli che hanno il Gorilla Glass, tipo il Samsung, no? Cioè non è una cosa da far toccare troppo, anche apparenti, eh? Non si sa mai, toccano qualcosa, magari non si ricordano cosa hanno toccato, ti sballano le impostazioni, oi, no. E vabbè, Huawei, poi c'è una sottomarca di Huawei chiamata Honor, che però è sempre Huawei, si chiama Honor però, tipo l'Honor 9, l'Honor 10, dice che sono apparecchi di tutto rispetto, addirittura tra l'Huawei P-Smart Plus e l'Honor 10 raccomandano l'Honor 10, dice una spanna sopra, costa di più, però è più evoluto. Vabbè, io mi trovo molto bene col P10, fa delle foto fantastiche, fa di tutto e di più, c'ha tutto internet, veloce, no, la verità non posso dire niente, poi scarico un bel di foto, non mi ha mai dato memoria completa, e foto ne ho, ne aggiungo un bel, ne sto scattando a go. Ascolta, tu ti ricordi che versione hai di RAM e di memoria? Quanta RAM e quanta memoria? non me lo ricordo, non ci guardo io queste cose, mi piace il telefono, sto comprando, però queste cose tecniche non le guardo. Eppure sono da valutare molto. Per esempio mia zia ci ha preso la WP Smart, no? Che era uscito da poco. Ed era 3 giga di RAM, 32 di memoria. 2 mesi dopo, nemmeno, un mese dopo che l'ha comprato, è uscito il P-Smart Plus, 4 giga di RAM, 64 di memoria, più processore, più batteria, cioè, caspita, sono molto innovativi, capito? Anche troppo. Solo che, come ti ho detto, ieri fanno 10.000 modelli di fascia media. No? Poi come fanno il nuovo modello, ti mettono più processore, più batteria, poi ti tolgono il wifi doppia banda, l'NFC, che senso ha? Non ho capito perché. Comunque c'è gente che stima molto la Huawei e c'è gente che stima questi Xiaomi, che sono però ambigui. Io li ho definiti ambigui, non lo so, mi pare che abbiano un Play Store alternativo, però qui lo dico e qui lo nego, qui, magari sto sbagliando io. Comunque, vabbè, a parte le marche, guarda che Amazon, certi si sono visti, per esempio, l'ordinavi dual sim e ti arrivava mono sim, chiedevi un colore e ti arrivava dell'altro colore, o peggio, a qualcuno gli è arrivato usato, cioè si vedeva proprio con dittate con qualche graffietto, sembrava roba recuperata, roba restituita magari che loro hanno rivenduto. È strana eBay, è strana, non eBay, scusa, Amazon. Infatti io, se posso, farò di tutto a costo di pagarlo di più, anche 50 euro in più, ma preferisco prenderlo da Media World, cioè lo voglio vedere al momento, deve essere sigillata la scatola, voglio vedere che dentro ci sia tutto, e ti danno il caricatore, le cuffie, l'eventuale adattatore, se c'hai la 3.1, capito già. Ma se tu guardi la tecnologia, sempre delle innovazioni, ogni mese c'è uno nuovo marchio che sarà sempre superiore a quello che comprato. Se tu ti attieni a quello che fa la tecnologia, devi stare cambiando il telefono ogni mese. Infatti, uno prende un top di gamma, però devi avere tipo il P20 Pro, però devi avere 800 euro in mano, 1.600.000 lire, delle vecchie lire quasi. Oppure un medio gamma, che poi medio alta, insomma sui 300 dai, non bisogna però scendere sotto i 200 perché... Vabbè, sotto i 200 comincia ad avere poca RAM, poca memoria, anche se espandibile, è meglio già avere una memoria nativa un po' alta, tipo 64 va già bene. Va bene, dai. Già, io mi sono ricordato, caspita, adesso che da stamattina devo pigliare la solita terapia, non ho preso niente, devo pigliare tutto adesso. Non ho preso il gastroprotettore, non ho preso il coso per la tiroide, non ho preso il cortone acetato, che è un altro ormone. E così non si fa nemmeno la cura. Vabbè, prendere mattina o di sera non cambia nulla, però lo devo fare, dai. Casomai se posso rientro dopo, se no ritieniti salutato, dai. Vabbè, dai, ci provo. Sentiamo Marco, buona serata, la terapia ricordati di farla, ma per la tiroide perché la prendi? Ma più che altro è un eccesso di gelo da parte dell'endocrinologo, perché io non sono proprio ipotiroideo, sono un po' al limite, al valore basso. Sono al valore basso, ma non sono molto al di sotto, non sono conclamatamente ipotiroideo, però ha detto che essendo un po' bassi i valori, male non mi fa, capito? Poi per il resto le cose principali sono invece l'ormone, quello che regola la sete, come si chiama? Ha un nome, minidin nel farmaco, però il principio attivo si chiama... proprio l'ormone, aspetta, non mi viene. E l'altro è il cortone acetato, che lo stesso è un ormone che era prodotto dalla neuro... dalla neuroipofisi. Quindi capito come hanno scalzato un po' non sanno nemmeno quanta ipofisi ci è rimasta, perché è talmente piccola che non si vede nella risonanza. Quindi mancando quei due ormoni vanno presi. Se tagliamo la nostra dieta anche gli ormoni, dai. A meno che, dice, siccome dopo un mese dall'operazione ci può essere ancora un edema della zona, bisogna aspettare altri 3 mesi per vedere se si stabilizza la situazione, perché se la situazione si stabilizza può darsi che si ripristini un po' questo ormone della sete, bene o male, si autoaggiusta l'organismo entro certi limiti, capito? Quindi potrebbe essere che fra 3 mesi non lo prenda più l'ormone che regola la sete. E forse anche l'altro, chi lo sa. Va bene, già, vado a pigliare queste cose. Oh, rimango, lascio tutto acceso qua, e se entra qualcuno magari già rientro. Io te l'appoggio. Antonè, ciao Antonè. Guarda, oggi avevo intenzione di venire da te, di pigliarci una bella birra limone al bar, però mi sono addormentato, mi sono svegliato alle 5, poi alle 5 e mezza è ritornata mamma, ho pranzato, poi non c'avevo sandali puliti, ho dovuto pulire i sandali, sciacquarli, poi li ho messi a asciugare, insomma alla fine sono fatte le 6 e mezza, mi sono rotto le palle, ho detto ormai è troppo tardi e non vengo. Guarda, un giorno ci mettiamo d'accordo, perché io alle 5 dovrei uscire da casa, 5, 5 e mezza massimo, non più tardi, perché poi torno troppo tardi a casa, la gente ha già parcheggiato, sai, la gente torna alle 8 a casa, 8 e mezza già a casa, non trovo posto, è un casino, ok? Figlio, non c'è problema, non ti preoccupare, anda bene bene, io mi stavo sistemando la roba qua, mi stavo ascoltando comunque. Ciao, anche Gianni. Gianni? Già sparito Gianni, automaticamente, puff. Tu sei tono fiscale, ma in bari, Santiago 5. Chi è che vuole entrare? Anch'io ho sentito uno basso fischiare. Cosa ti stavo dicendo, Antone? Sì, cioè, caspita, da quando sono rientrato dall'operazione ancora non ci siamo visti. E tu mi avevi scritto, chi non beve in compagnia è un ladro e una spia, com'è? Sì, si è cantata la picchia, ci sento un bip di splatter. Vuoi vedere che ci hanno spostato di frequenza, e lo sono avvisato. Avanti, chi è? Chi vuole entrare? Non vuole entrare, vabbè. Ci fa sapere che c'è, ma non vuole entrare, allora. Fate vopis. Caro Antonello, poi domani, vabbè, domani vediamo, perché ho idea che piombi qua mia zia. E quindi niente di fatto. Vabbè, già prima o poi ci vedremo, dai. Però insomma, in fin dei conti che sto passando tutti questi giorni a casa, buttato a letto, buttato sul divano col baracchino, non sto andando al mare, non sto facendo niente. Ogni tanto esco a fare la spesa, ma a parte fare la spesa non sto andando da nessuna parte. Tutta quella ripresa che avevo avuto dopo la rimozione delle piastrine al naso è sfumata. Sto riprendendo lo stile di vita di prima, di stare buttato a casa e non fare nulla. Invece di uscire, di vedere gente, Devi uscire, può essere questo periodo qua a me. Ci sono tutti i giorni feste, ho visto senza i concerti, cose del genere. Io sono uscito ieri, adesso domani mattina devo andare a consegnare quei due portate, ti ricordo di quelli che avevo comprato dai cinesi. Mi sto vendendo qualcosa a un vecchio lì, già li usa lui. 30 euro quanto li ho pagati io, quei due PMR, gli ho tolto almeno, recupero 30 euro, è stato qua buttati, non lo stavo neanche più usando. Tengo solo gli altri e basta, se no si usano le ho caricato le batterie, allora sono mai, che li consegno, poi devo andare a sistemare un coso, con questo lì devo fare le batterie da fusaro e sistemare un VHF, me devo cambiare le batterie, e mi costano 15 euro, ragazzi, boh, 6 batterie, 15 euro, fuori di testa, ragazzi. Ma che batterie, stilo? Sì, sono in stilo da piazzare dentro a pacco batterie. E quante te ne servono? Sì, non vanno bene quelle che c'è tu, sono queste qui vogliono saldarse, quindi adesso c'è in partenza, c'era la mela da saldare una con l'altra, quindi non fa, già ti ho capito quello che hai detto, volevi darmi quelle norme, non vanno bene. Ah, ho capito. capito, sì, quella con la lamella metallica da saldare assieme alle altre, sì. No, allora ti spiego, nei miei portatili che usano tutti batterie stilo o mini stilo, ci ho messo quelle batterie da 2004 o da 2005 che vendono da Lidl e ti dirò che vanno veramente ma veramente bene. Invece quando prendevo l'Energizer, nota bene, l'Energizer comprate lo Shan, ma sai quante me ne sono bruciate? Si rovinavano durante la ricarica o con l'uso, ho buttato un bel. Invece quelle che hanno da Lidl sono un bijou, le ho messe in tutti i portatili. Qua praticamente quelle stilo sono da 2004 o da 2005, sull'ultimo portatile l'ho messa da 2005, mentre quelle mini stilo purtroppo sono da, mi pare, 700-800 mAh. Più di più non puoi avere con la mini stilo, tanto 1000 cominciano a scaricarsi troppo in fretta, hanno un'autoscarica più veloce. Mi ha quando vengono quelle stilo lì, gli hanno sentito che ci portati tu, quello che mi hai regalato tu, che l'ho sistemato, quello della Inter, cioè vogliamo 10 adesso dentro, un matrimonio. Ma te l'ho detto, se tu le compri da Lidl costano 3,99 4 stilo, quindi 4 euro 4 stilo, 8 stilo 8 euro, però se ce ne vogliono 10 devi comprare un altro pacco, 12 euro in tutto e te ne avanzano 2. No, già va bene, come costo già va bene, perché lo sto alimentando con l'alimentatore, io metto un alimentatore da 12 volts di quelli di telefono e funziona benissimo, è necessario la trasmissione, l'ho trovato l'altra volta, no, gli voglio mettere le batterie così almeno se dovessi uscire fuori mi piglia portate solo la 27, quello turbami, perché c'è lo stilo lungo, cazzo, e poco funziona bene, un demonio, arrivo fino a casa tua invece con quell'altro, l'altro portante è quello, si chiamava Mancomoto, riusciva a sentirmi, quello con la telecamera che montava le batterie. Non dice questo è una cosa allucinante. Ciao, metto 5 watt e tuba, con quello stilo che. Gli ho messo lo stilo di un altro malattino portante che ce l'avevo io. Quello lungo. È perfetto. Ebbè, quello era uno stilo, un ottavo d'onda effettivo. 1,20 m, 1,30 m, è un bijou quello. Ma da quando hanno fatto queste antenne super caricate, corte, hanno rovinato tutti i portatili. A parte che i portatili attuali escono male, anche questi Intec, gli ultimi modelli Intec, ma anche il coso, anche il Midland, che ce lo fanno pagare un bel, il Midland, come si chiama il Midland portatile? Esce a basso di radio, non arriva da nessuna parte, cioè è inutile vendere portatili con quelle antenne e con quelle modulazioni anche, è completamente inutile, era molto meglio il Maxcom, se lo ricordi, il Maxcom, come si chiamava? Quello bianco che hai avuto tu, che hai avuto io. Il Maxcom 7 per esattezza, quello a valigetta d'emergenza, già ho capito quale stai parlando tu. Quello l'ho avuto anch'io, quello c'è benissimo, ce l'ha cosa, ce l'ha uno di quelli di uguale, San Video ce l'ha, capito? Lui lo usava tranquillamente, usciva anche forte, quindi figura di tu. Certo, l'antenna sua è corta, no? Quella che li avvisi, però io sono sicuro che dentro l'apparato c'hai una bobina, perché comunque devi raggiungere un ottavo d'onda almeno, capito, per avere efficienza. Ma Saverio chi? Chi Saverio stai dicendo? Che nominativo ha? Saverio Zambo, te lo ricordi, quello che modulava dalla macchina, alto, che abitava a fianco dove lavorava Giulio. Non me lo ricordo. No, mai conosciuto Antonè, mai conosciuto, non so di chi mi parli, figurati, sono stato assente tanti anni, sì. E vabbè, comunque, modulava la, c'era quella Ferrari, che quell'antenna dietro c'aveva anche il 610F della Palazzo, che ho avuto anch'io, quello 40 canali, con il bip e stazione pazze. Cava, cava. No, comunque è buono, quello portatile ce l'ho poi conservato. È perfetto. Quello rimane qui a casa. L'ho aggiustato, gli ho cambiato anche l'integrato audio che si era bruciato. Io un giorno avevo fatto col cotto, non l'ho sgabizzato. Ma non avevo pagato un euro, il TDA del 2007. No, è in fase 2007-2004, ma non me la metto. O 2002, boh. Non mi ricordo più. Comunque sia, è perfetto. Eia, ma Gianni che fine ha fatto? Boh. È possibile che, come ha detto, ha chiuso il freno all'istante, tac. Va bene. Devo pigliare medicine pure. Un'altra serata buttata nel cesso. E d'altronde a Sassari dove vai? Dove vai? Anche se fanno concerti qua, sono concerti di chicchia. A me piaceva la musica rock, la musica metallara, mi piaceva. Quelli erano concerti. Come quelli che facevano Alghero, che facevano a Porto Ferro, vabbè, anche se non ci andavo perché è lontano. A me questi concertucoli di musica così non me ne faccio niente. Come l'ho fatto a Lido Iride, hai visto che gli hanno chiuso tutto, ha messo tavolini, cose, sdraio, non so, non aveva la licenza e tutto gli hanno chiuso. Cioè alla fine aprire la Carlona così, non lo so. Il proprietario dice che c'è stata una diversa una interpretazione personale della norma, ma la norma non credo che, cioè, boh. Ma poi chi lo sa cosa c'è dietro anche, no? Sì, ce l'ha parlato che vi ha fatto amore, già lo sai, ne ha buttato giù tutti quei casotti che c'erano prima, quindi evidentemente sono parlati quanti cani, capito? Già te lo dico, in periodo uno metteva fuoco all'altro. Oh Antone, Antonello ci sei? Todos muertos.